자 곳에 라베다 Vola via in un clic là sembra di sognare tic tac il tempo va e vibra il suono in me. E vibra il suono.